Cosa sarebbe se ogni mio gesto si ripetesse un'infinità di volte, immutabile? Cosa sarebbe se ogni parola accolta dal vento volasse, ma poi si ripresentasse sempre con lo stesso tono di voce con cui è stata pronunciata, con la stessa finalità per cui è stata concepita, sempre uguale a se stessa. Cosa sarebbe se ogni pensiero che mi balena nella mente l'avessi già pensato? Cosa sarebbe se tutte le volte che ti facessi una carezza tu sapessi che è stata solo una riproduzione, una copia di infinite altre copie che si ripetono in una successione temporale ciclica? Tutto perderebbe valore e noi trasformati in creature nude, come potremmo riuscire ad amare con serietà? Cosa sarebbe se cadesse a terra il mio bicchiere e si infrangesse? Io non sarei triste, perché saprei che un bel giorno il mio bicchiere si ricostruirebbe per poi ricadere e finire in mille pezzi nella stessa situazione in cui il fattaccio era avvenuto prima volta, ma forse era la 200esima. Tutto perderebbe valore e noi trasformati in creature nude, come potremmo riuscire ad amare con serietà? Cosa sarebbe se questo bacio appassionato che ora mi stai dando lo potessi replicare in tutto il suo calore, con le stesse sensazioni fortissime che il tuo corpo attaccato al mio mi trasmette violentemente? Forse perderebbe valore, ma noi che già siamo creature nude, come potremmo negare questo eterno ritorno dell'uguale? Noi paladini del senso, immersi in questo flusso vitale denso, potremmo desiderare che continui a tornare l'uguale.